Sei tu al mondo, tu, tu che accendi la mia vita, tu sei per me chi immaginai, speravo in te, sognai il tuo nome, così sei tu. Sei il mio bene, il dolore, nessuno ha mai, come amo te, nessuno avrò. Così vicino e va questo amore, come fa la musica, fermi il tempo e fermi le parole. Così sei tu, così sei tu. Ah.